1, 2, 3. Adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, le 7:19 minuti, cari ascoltatori, sono due le notizie più importanti oggi sui giornali e di queste parleremo dalle 8:15. Beh, ovviamente l'attacco a Tunisi, l'attentato con 20 turisti almeno morti, di questi forse 4 italiani, ma i numeri sono ancora provvisori. E poi la vicenda politica di Lupi. Avremo ospite il sottosegretario agli esteri, Lapo Pistelli, e Loretta Napoleoni, economista esperta di terrorismo internazionale, sul tema Tunisi. Avremo ospite invece il sottosegretario ai trasporti, Umberto Del Basso De Caro, e l'ex vice ministro ai trasporti e alle infrastrutture, Roberto Castelli, della Lega, per parlare invece del caso Lupi. Questi gli ospiti e invece i giornali, beh, i giornali andiamo subito a sfogliarli. In questo giovedì 19 marzo, auguri a tutti papà, è giusto? Non ho sbagliato, bene. Allora, i titoli intanto, il Sole 24 Ore, Tunisi, attacco al museo, 20 morti, 4 gli italiani, questo è il titolo di apertura, poi c'è anche un titolo sulla Fed che apre al primo rialzo in 10 anni. Ma certo, così li ho visti uccidere, Corriere della Sera, Repubblica, Tunisi, la strage nel museo, La Stampa, Tunisi, i primi italiani uccisi dall'ISIS, Il Fatto, ISIS, strage a Tunisi, primo sangue italiano, ma c'è anche il titolo principale su Lupi Family, non basta il figlio, pure la moglie viaggia a sbafo. Libero, l'Islam colpisce ancora e fa strage di italiani. Per il giornale, sangue italiano e guerra. Come vedete, i titoli sono poi declinati ognuno col suo tono, ma sul tema principale. Lo vedremo tra poco. Prima voglio partire come al solito da altre notizie. Le notizie non magari da prima pagina, ma ieri c'è stato un primo punto giudiziario sulla vicenda che ha coinvolto Davide Vannoni. Lo sapete chi è, lo abbiamo ospitato anche varie volte, è colui che ha inventato il metodo Stamina, un metodo considerato privo di validità scientifica, un metodo che secondo Vannoni doveva risolvere il problema delle malattie neurodegenerative. Nessun metodo scientifico e ora il patteggiamento in aula, patteggiamento a 22 mesi. Vannoni patteggia ma non si pente, il metodo funziona, dice ancora. Leggo il titolo dalla Stampa, pagina 18. Il grande accusatore era Raffaele Guariniello, che esulta perché la giustizia c'è e la scienza trionfa, mentre il grande accusato Davide Vannoni, per voce dei suoi legali, controbatte che la scienza è la grande sconfitta e che un giorno gli darà ragione. Questo a margine del patteggiamento a 22 mesi, la sentenza che si sta commentando del patteggiamento a un anno e 10 mesi accolto ieri dal GUP di Torino Potito Giorgio, la pena inflitta al padre del cosiddetto metodo Stamina mette la parola fine a 6 anni di indagine e forse ad altrettante di polemiche. Quello che è certo è che Vannoni, accusato di associazione a delinquere, truffa, somministrazione di farmaci pericolosi, non andrà in carcere, non sborserà un euro di risarcimento, non farà ricorso al TAR contro la bocciatura da parte del Ministero della Salute e non riproporrà il metodo Stamina né in Italia né all'estero. Se lo facesse, scatterebbero le manette. Vannoni dice: ho comunque ragione io e un giorno avrò ragione. Chi non la pensa così è la senatrice Cattaneo, Elena Cattaneo, nominata senatrice a vita nel 2013 per alti meriti riconosciuti nel campo della scienza, viene intervistata dalla Stampa da Nicolò Zancan e dice: non entro nel merito giuridico, ma penso che il patteggiamento limiti una conoscenza puntuale e diffusa dell'enormità delle condotte che queste persone hanno realizzato. E dico questo a Vannoni, che dice: ho ragione io. È la classica strategia retorica degli antiscientisti. Se non l'hai provato ieri e non puoi provarlo oggi, di che accadrà domani, un domani in cui nessuno potrà smentirti. In altre parole, l'avvocato di Vannoni dice che quando sarà dimostrato che la Terra è al centro dell'universo, lui proporrà un nuovo processo a Galileo. Questa è la metafora usata dalla senatrice Cattaneo, che ricorda cosa risponde a Vannoni che dice addirittura che la scienza ne esce mortificata. Non so a che titolo parlino di scienza queste persone. Le accuse sono state di associazione per delinquere aggravata e finalizzata la truffa. La scienza nel processo non c'è mai entrata, né del resto era presente nel non metodo. Io lo chiamo così, il non metodo. Insomma, lei non si è stancata di combattere per ristabilire principi ovvi? Assolutamente no. E alle vittime che si ritengono ora beffate da questa non cura, dico, mi dispiace, mi addolora. Così Elena Cattaneo. Mentre un'altra vicenda che è diventata giudiziaria, una vicenda per la quale io mi auguro che vengano scritti 15 libri, la storia di Manenti e il Parma, è un personaggio... Sì, interpretate bene le parole che dica, a suo modo geniale, cioè c'è del genio italico nell'accezione forse peggiore, in quella che è la storia di Giampiero Manenti, 45 anni, da Limbiate in Brianza, titolare della società Mapi Group con 7.500 euro di capitale, arrestato ieri, è colui che si è preso il Parma per un euro, ma non ha un euro. Cioè è una roba incredibile, a parte l'arresto perché l'accusa è di riciclaggio, no? Cercavano di comprare il Parma con dei soldi riciclati, questo è il senso. Ma leggete che cosa scrive Francesco Alberti sul Corriere, ma guardate anche Francesco Savero in Torcia su Repubblica, fanno dei profili di questo Manenti che sono una cosa da sbellicarsi dalle risate. Cosa resta di Giampiero Manenti? A parte Mina, parole, no? Inizia così Francesco Alberti. Uno che voleva vincere facile spendendo niente, che ha comprato per un euro da un tycoon albanese del petrolio ciò che restava del derelitto Parma, un club ridotto a una groviera di debiti. Di questo signore di 45 anni di Limbiate, che per un mese ha preso in giro una città, i vertici del sistema calcio restano brandelli d'immagini. Primo flash. Fine febbraio, gara Parma-Atalanta. Manenti allo stadio Tardini sorseggia amabilmente spumante tra mortadelle e salumi vari, il tutto pagato da altri, visto che lui non ha un euro. Mentre dalla curva gli gridano vattene, vattene, il sindaco Pizzarotti lo ignora volutamente. All'uscita dallo stadio, se non fosse per la polizia, gli ultra gli avrebbero fatto a pezzi pure l'auto, che per la cronaca gli è stata già pignorata. Altro flash, quando ancora vantava un briciolo di credibilità, Manenti diceva così al Corriere di Bergamo: prima si acquista e poi si paga, altrimenti non si muove nulla. E alla domanda sulla voragine del Parma rispondeva: nemmeno io so esattamente quanto siano i debiti. Ma perché stupirsi? Bastava fare un salto in Slovenia, a Nova Gorica, e vedere cos'era quello che Manenti chiamava il suo quartier generale, la Mapi Group. 4 scrivanie, 2 computer, 7.500 euro di bilancio sociale, il tutto nella casa dei signori Dusan e Nevenka Bremez, commercialisti ai quali il nostro continua a promettere un futuro a forma di dollari. E invece ai parmensi andò a raccontare di un piano industriale quinquennale da fare invidia a Lenin. E intanto passavano i giorni, gli stipendi ai calciatori dipendenti del club, neanche l'ombra. E al centro sportivo di Collecchio andavano in scena i blitz degli ufficiali giudiziari impegnati in sequestri creativi, auto, furgoni della società, la panchina di Donadoni, utensili per la palestra, computer, stampanti, salvi per la pietà i palloni. E Manenti? Non è questo il problema, diceva. Non sono 2 sequestri, sto lavorando per voi. Su Repubblica si racconta di quando invece diceva a tutti che era milionario vendendo olive su eBay, ma intanto faceva i colloqui per un posto all'Esselunga. Ma voi capite che c'è da scrivere, ma non dei libri, dei romanzi, fare delle sceneggiature per film. Ci aveva provato già 2 volte a prendere il Parma, a ottobre da Ghirardi, e molti anni fa gli chiesero di mostrare il tesoro e lui disse: ho venduto un brevetto di lattine alla Coca-Cola. Ma io non sto più nella pelle. Ovviamente lo mandarono via dicendo: ma come un brevetto di lattine? E parlò di terminologie strane come revenue. Lo mandarono via. Ecco, Manenti è riuscito di fatto ad acquistare con un euro quello che viene definito oggi la Repubblica Mr. Bluff, il Parma. Anche Pizzarotti, sindaco di Parma, dalla Stampa, dice: è solo la punta dell'iceberg, è un sistema mostruoso questo, con troppi avvoltoi, e ho fatto bene a chiudere a lui tutte le porte del dialogo. Vabbè, Manenti. Io vi giuro, appena uno scrive un libro su Manenti, lo leggo e lo divoro. L'articolo oggi che ci fa pensare invece è questo. Cari ascoltatori, quello che ci fa tenere le mani sul volante se siete alla guida, tazzine del caffè bollente appoggiate e mani sui braccioli e posizione di atterraggio di emergenza che ci ascoltate in treno, lo so. Le tasse sulla birra. Il giornale Antonio Signorini racconta la protesta di Assobirra ieri in piazza Montecitorio. La metà del costo della birra se la bevono le tasse. Questo è il titolo del giornale. 9 italiani su 10 quando bevono una birra non sanno di pagare un balzello, una tassa che in 15 mesi è aumentata del 30%. Il 27% sa che vengono applicate delle accise alle bevande alcoliche, mentre quasi nessuno sa di pagarle quando beve una birra. La protesta al grido di "rivoglio la mia birra" dell'Assobirra a dire "tutto in tasse". Non è possibile una roba del genere, vergognatevi! Alessandro Milan Ken, il guerriero dell'informazione! Ah, Ken, ah, Ken il guerriero, ricordo, però non lo guardavo. Ken il guerriero non so nulla, però grazie caro ascoltatore. Allora, come potete immaginare, sui giornali è pieno di articoli, resoconti e poi le foto. In questi casi le foto raccontano il terrore ancor più degli articoli di quello che è successo a Tunisi. L'assalto al Museo del Bardo vicino al Parlamento nella capitale della Tunisia. 20 morti più 2 terroristi, sarebbero 5 i terroristi, forse 3 sono in fuga, chi lo sa. Ci sono probabilmente 4 italiani tra le vittime, ma anche qui i numeri e le notizie sono frammentarie, non si capisce bene, ci sono anche dei dispersi. Sta di fatto che le cronache le potete trovare, alcuni giornali la declinano col solito tono molto aggressivo, guardate il titolo di Libero, l'Islam colpisce ancora. Come se non avessero colpito peraltro in un paese, anche questo, a maggioranza musulmana, identificare i terroristi con l'Islam. Oppure il giornale che dice "siamo in guerra". Vi segnalo 2 articoli tra i tantissimi di cronaca, le testimonianze dell'orrore, del terrore. Il primo è di Guido Limpio sul Corriere della Sera. Chi ha attaccato? Chi sono i terroristi? Cavalieri neri per una missione sacrificale. Mujahideen usciti dalla fabbrica del jihad tunisino. Sono Jaber Khnachni e Yassin Labidi. Morti in battaglia. Mistero invece sui loro complici. Il primo, Jaber Khnachni, originario di Kasrin, era scomparso 3 mesi fa, aveva contattato la famiglia usando una carta telefonica irachena. Un piccolo indizio in un massacro realizzato secondo un modus operandi classico, gli occidentali come bersaglio, il simbolo del Parlamento, la presa di ostaggi nel Museo del Bardo. C'è chi accusa Ansar al-Sharia, mentre un'ipotesi investigativa conduce a Obka bin Nafi, fazione legata ad Al-Qaeda nella terra del Maghreb e che ha firmato molti attacchi, partendo proprio da Kasrin, nell'ovest della Tunisia. Ha i mezzi, è esperienza, è determinata. In un messaggio sul web, un emiro qaedista ha annunciato un'offensiva in un paese dove si è diffusa la corruzione, la perdizione e la povertà. Il comando è arrivato fino al centro della capitale, percorrendo un sentiero ideale iniziato almeno 3 anni fa, quando gruppi di ispirazione diversa, ma tutti legati alla lotta armata, hanno alzato il livello dello scontro. Certo, chi sono questi terroristi, chi c'è dietro, sono tutte ipotesi, ma Guido Limpio fa un articolo interessante su chi possano essere. Come, ma io lo adoro per come scrive e per le analisi che fa, è sempre illuminante e straordinario Domenico Quirico sulla Stampa in prima pagina. È la guerra totale islamista. Questo è il titolo di Domenico Quirico che, come ricordate, è stato anche rapito per mesi in Siria. Racconta Quirico: forse l'unico modo per capire, per rendersi conto, sarebbe pubblicare bollettini giornalieri. Oggi un gruppo islamista colpito nel cuore di Tunisi, 20 morti. Sul fronte di Tikrit del sud del califfato, scambi di artiglieria, le forze sciite anti-ISIS hanno continuato ad arretrare. Gruppi mobili in Sahelistan di Al-Qaeda Maghreb fanno razzia sud di Kidal. In Nigeria, gruppi armati dei Boko Haram hanno bruciato un villaggio. Episodi staccati? Guerriglie locali? Terrorismo diffuso? No. Un giorno normale della grande guerra islamista. Perché si combatte dalle montagne afghane al deserto della Mauritania, dallo Uyebi Shebeli alle rovine di Aleppo, tomba di un popolo sventurato. Globalità e contemporaneità, pezzo dopo pezzo, scaglia dopo scaglia, il califfato totalitario disintegra la nostra tattica, vile e furbastra, di tenere gli scenari separati, per non dover ammettere il pericolo e per affrontare decisioni scomode. Sì, qualcuno ha dichiarato guerra e già la combatte, avanza, annette, amministra territori occupati, cancella le nostre frontiere, tiene in scacco fragili e impresentabili alleati dell'Occidente. Lo Stato che vuol cancellare tutti gli Stati con una guerra totale, non solo per i mezzi che impiega, i carri armati, i comando suicidi, il petrolio, i video di propaganda. Siria, Iraq, Libia, creazioni politiche già morte, che non risorgeranno mai più. Il mondo è stato modificato brutalmente, altri seguiranno rapidamente. Interessiamoci non alle sigle, ma a questi terribili uomini nuovi del jihad, con la morte sotto i piedi, l'odio che sale nel petto, credenti a cui non è servito a niente il mondo moderno, ora che tocca a ciascuno farsi strozzare dalla sua morte. Che solco immenso tra i loro mondi insanguinati e le nostre piccole necessità: mettere in sicurezza il petrolio, il gas, controllare la partenza dei migranti, difendere i nostri clienti. Guardate la carta geografica con zampate feroci, larghissime, l'Islam che si è autonominato a sciogliere il nodo escatologico del destino umano, a fondare il regno di Dio sulla terra, ci esclude da parti intere del mondo, estirpate col ferro rovente. Quegli uomini sono capaci di tutto, sono una cricca sempre più piena di forza e di sicurezza, mentre noi che aspettiamo non abbiamo niente. Viviamo sulla lama del coltello, ci bilanciamo da un minuto di speranza a un altro minuto di speranza. Ci tengono ben stretti al morso gli uomini del califfato. Si tengono uniti in quella dannata cricca che il successo aumenta ogni giorno. Amministrano il loro sogno sanguinario, amministrano il paradiso, hanno tutto in pugno loro. Questa è la guerra totale islamista vista da Domenico Quirico. Vi segnalo che ieri i servizi di intelligence italiani, che secondo Repubblica sono in massima allerta, hanno arrestato un pakistano, si chiama Ahmed Riaz, a Brescia. Era stato già espulso dall'Italia per attività considerate di affini al terrorismo, espresse online. Arrestato in Italia, non in Somalia, in Italia, già espulso. Vabbè, l'altra notizia del giorno certamente è la politica. Lupi, le vicende di Lupi, ne parleremo alle 8.15, così come di Tunisia. Regali e cene elettorali per Lupi. Lupi che non si dimette. Lo scontro politico è continuo. Raccontano i giornali che Renzi continua a insistere a dire è meglio fare un passo indietro, altrimenti la minaccia è questa, concretizzata in tutti i giornali, ma il Messaggero la mette bene con un titolo a pagina 11. Renzi avverte: se Lupi resiste, il PD non garantisce i numeri. Cioè, se Lupi non si dimette, quando arriverà la mozione di sfiducia presentata dal Movimento 5 Stelle e SEL, non è detto, dice Renzi, che noi del PD appoggeremo con i voti, cioè respingeremo la mozione di sfiducia. E Lupi, sotto assedio, invece dice, l'abbiamo sentito anche alle 6.30, il governo è con me, il governo mi appoggia. Ieri si è presentato assediato da giornalisti, critici, gente che lo attacca, gente che lo sbeffeggia, quel Rolex è tuo, questo vestito te lo sei comprato tu. E Lupi dice, ha risposto a tutto, farò chiarezza domani, se ho sbagliato qualcosa chiederò scusa intanto anche ai miei familiari e a tutti, ma intanto resiste. Resiste al suo posto, tutti raccontano che spunta ora anche il biglietto aereo comprato per la moglie per andare a Bari. C'era una convention di NCD e secondo la procura un biglietto aereo da 400 e rotti euro è stato comprato per la moglie di Lupi per farla andare a Bari da parte di uno di questi imprenditori arrestati, tale Francesco Cavallo. Comunque, spuntano anche altri nomi, tra poco li vedremo. La vicenda Rupi, intanto però voglio salutare il nostro Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Vabbè, oggi giornata così, volevo dirti... No, perché sei depresso? Dico... Aspetta, no, stasera a deprimerti sul serio. Ah, proprio non rinunciamo a una certa vivacità, neanche... Vabbè. Volevo dirti che oggi ho parecchio da leggere, quindi facciamo una cosa svelta, perché oggi con il Sole 24 Ore, come già ti ho detto ieri... Sì. C'è un instant libro. Book, esatto. Bravissimo, un libro dedicato al Jobs Act, che si poteva anche dire però riforma del lavoro. Sì. Fa niente, libro Pignolo. Dedicato al Jobs Act, che serve appunto a spiegare che cosa è già in vigore, che cosa poi ulteriormente entrerà in vigore, un volume per capire il cambiamento di regole, un volumetto per capire il cambiamento di regole, insieme al Sole 24 Ore, all'interno del quale invece Sole 24 Ore, cioè, oggi trovi il Giornale della Famiglia, con le quattro pagine dedicate questa volta al debito. Sai che abbiamo anche questo titolo, lo segnalavi tu prima, sulla Yellen, la Fed, la Banca Centrale Americana, che apre a un possibile rialzo dei tassi. Ecco, il Giornale della Famiglia spiega perché sono così importanti gli interventi delle banche centrali degli stati, e poi abbiamo anche dedicate alla casa, Casa 24, dalle quali apprendo che c'è un risveglino del mercato, non diciamo niente. Un risveglino. La questione delle nomine illegittime alle entrate censurate dalla Corte viene trattata ampiamente in norme e tributi. Vorrei però dire che l'idea che si possa fare ricorso per illegittimità degli atti emessi da questi dirigenti, ma leggi norme, norme e tributi. Mi sembra che gli tutti gli italiani pronti lì a sperare nelle pagine di norme e tributi, a fronte di una pagina o poco dopo la pagina che parla di avviamento che non c'entra, non è quello dei motori, è un avviamento, è una questione contabile molto importante, poi se vuoi puoi estendere la tua conoscenza anche a questo aspetto. E poi naturalmente non ti dimenticare che ieri è stato votato al Senato il divorzio breve, adesso va alla Camera per il voto definitivo. Questo no, non nel senso che ti auguro di divorziare, ma che è un cambiamento molto importante. Più che altro la tua squadra, so che sta cercando di divorziare, ma non trova mai il modo dal suo allenatore, forse aspetta anche il di voto vendere finale. Vendiamo a Manenti, io venderei subito a Manenti. Perché hai un euro, ma tu scusa che hai 2 euro, io ho 2 euro, ho il doppio del capitale di Manenti, potrei comprare due squadre, Parma e Milan, compro. Potresti comprarti il Milan con 2 euro, sì, esatto. Pensaci su, io vado a leggere il Jobs Act, il libretto che diamo oggi col Sole. Traffico. Alessandro Milan. Ma no, forse è meglio Alessandro Juve. Bravi, complimenti, siete ai quarti di finale, la strada per la finale è lunga. È lunga. Comunque, cari ascoltatori, torniamo per il momento alla questione Lupi. Come detto, c'è la rete dei favori al ministro, questo è il titolo del Messaggero, biglietti aerei alla moglie, anche il Sole, anche il Fatto Quotidiano con Marco Lillo a pagina 8 racconta i favori pure alla moglie, un biglietto aereo pagato alla moglie del ministro dalla cooperativa La Cascina, la telefonata di Stefano Perotti, che è uno degli imprenditori arrestati, che si mette a disposizione del figlio per trovargli lavoro, e una seconda opportunità di lavoro grazie a Claudio De Ecker. Le novità più imbarazzanti per il ministro Lupi emerse dalle carte depositate ieri sono queste. Tra l'altro l'articolista è appunto Marco Lillo finisce in una delle intercettazioni quando incalza, parlando con qualcun altro, dice: ma questo Marco Lillo, che gli dobbiamo fare ormai? Il male fisico, questo rimane. Vabbè, sfoghi al telefono. Esce e spunta anche un altro nome al telefono, nelle telefonate. È il nome di Ugo Sposetti, senatore del PD, storico ex tesoriere dei DS. Intercettato al telefono con Giulio Burchi, uno degli indagati, dicono gli inquirenti che Burchi si attiva in più occasioni al fine di reperire lavori e incarichi in favore di persone indicategli dallo stesso Sposetti, tanto che Burchi a un certo punto si lamenta con Sposetti dicendogli: non faccio altro che fare l'ufficio di collocamento. E allora ecco che sia Repubblica che La Stampa vanno da Sposetti a intervistarlo. Senatore Sposetti, chiede per Repubblica Concetto Vecchio, lei conosce Giulio Burchi? Sì, lo conosco. Ma secondo un'intercettazione avrebbe reperito incarichi in favore di persone che lei indicava. Tutto falso. Non ho reperito incarichi. E allora come spiega le intercettazioni? Io mettiamo che abbia segnalato un giovane ingegnere che cerca lavoro, dice Sposetti. L'ho fatto, certo, ma con persone assolutamente bisognose, cittadini senza reddito, disoccupati, padri di famiglia in necessità. Insomma, ho provato solo a dare una mano, un po' come fa la Caritas. Sposetti come la Caritas. Beh, Sposetti è uno straordinario, eh? Sposetti come la Caritas. Alla Stampa: è vero, segnalai due persone, chi è in difficoltà va aiutato. E gli chiede Francesca Schianchi: scusi, erano suoi parenti? No, ma quali parenti? Beh, ma altri disoccupati penseranno che quei due sono fortunati a conoscere un politico. Se lei passasse dal mio ufficio vedrebbe quanti curricula. Ho fatto tante segnalazioni. Quindi, cari ascoltatori, questo è un messaggio chiaro. Ufficio del senatore Sposetti, andate lì se avete bisogno, lasciate il curriculum. Sia mai che può capitare che entriate nella possibilità che anche il vostro curriculum possa essere, in quanto bisognosi, un po' come alla Caritas, si fa la fila, si lascia il curriculum e c'è la speranza di essere segnalato. Potete farlo. Comunque, staremo a vedere. Che succede a Lupi? Intanto in calza si è presentato dai magistrati l'interrogatorio a dire: io intendo rispondere, è tutto talmente chiaro, mi potevano evitare tutta questa sofferenza e convocarmi, avrei spiegato ogni passaggio, racconta così Giovanni Bianconi sul Corriere. E sui soldi: si tratta di compensi per attività professionali liberamente svolte, si tratta di 700.000 euro che hanno trovato su una società, la Greenfields System, e Incalza li spiega così: l'unica colpa ammessa da Incalza, colpa tra virgolette, è conoscere molte persone, effettivamente sono tante, e sono pure ascoltato, e capita che mi vengano segnalati giovani ingegneri che possono lavorare bene, e io mi adopero con qualche telefonata. Così Incalza. Comunque Lupi resiste, staremo a vedere quanto e se resisterà. C'è anche sul Corriere il lavoro trovato al nipote del Monsignore, come racconta Fiorenza Sarzanini a pagina 21. Ragazzi, ci sono degli spaccati d'Italia oggi tra Manenti e queste cose qui sui giornali, straordinari. Vabbè, il lavoro trovato al nipote del Monsignore, che dice: alle europee chiederò più voti possibili per il ministro Lupi, questo per ringraziare per il lavoro trovato, questo parlando con uno degli imprenditori. E a lei. Vabbè, non c'è molto altro da raccontare, cioè il tempo fugge e quindi c'è poco da raccontare. Mi ha colpito molto questo. Sapete cosa succede nella democratica Corea del Nord? Che moltissimi lavoratori operai sono stati mandati in Qatar per i cantieri del mondiale di calcio il 2022, quando sono 2022 più o meno. Ebbene, però il regime di Pyongyang manda questi operai, ma trattiene il 90% della paga di questi operai. Giustamente Guido Santevecchi racconta questa storia sul Corriere: gli schiavi della Nord Corea nei cantieri del mondiale in Qatar vanno a lavorare lì, ma il 90% di soldi lo danno al regime. Ebbene sì, dai, Trevez, questo è il titolo. Ha fatto tre gol? Due gol e un assist. Trevez, questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. Tevez, la Juve, ma la strada è lunga. Ne so qualcosa io, il Milan in Champions League lustri fa. Va bene, siamo al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. A mio insindacabile giudizio è Libero che vince con Gemma Gaetani, una pagina intera sui litigi tra Fabio Fazio e Noel Gallagher nell'ultima intervista, una pagina intera su Fabio Fazio che dirà la messa del 25 aprile, farà una serata in prima serata su Rai 1. Ma veramente, ma chi se ne frega!